suo sole e arriva un fiume di paure che la notte nutrirà con nuovo ardore. Resto seduto e il buio intanto inghiottirà ogni inutile certezza. Soltanto il vento che prima o poi arriverà spazzerà ogni mia inquietudine. Riprenderò il mio cammino senza poi guardare indietro. Solo tu il rimedio al mio equilibrio instabile. Ancora tu un fulmine ciel sereno. Ancora tu ma se resto seduto, la luce intera.